voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Don't ever let anybody tell you they're better than you, Forrest. If God intended everybody to be the same, he'd have given us all braces on our legs. Mom always had a way of explaining things so I could understand them. Untouchable. tanti i motivi che ci possono far avvicinare ad un gruppo. Sicuramente uno di questi motivi può essere il nome del gruppo stesso, come a me è successo con la band appena ascoltata. Non appena ho letto il nome Cajun Dance Party ho cercato informazioni per capirne di più e queste informazioni mi hanno incuriosito maggiormente. Loro sono in 5, sono di Londra e l'età è fra i 16 e i 17 anni. Ancora non hanno un album, lo stanno registrando proprio in queste settimane, però hanno un pezzo, quello che ci siamo ascoltati in Eclettica dal titolo The Next Untouchable. Invece la prima parte di questo primo volume della settimana di Eclettica si è chiusa con due band che già ben conoscete, quindi non ho speso ulteriori parole su di loro avendo le spese nelle scorse settimane. Prima i Forget Cassettes e poi gli Alfkausen. Crediamo che le nubi siano vittima di ingiuste calunnie. Senza di esse la vita sarebbe incommensurabilmente più misera. Le nuvole sono per noi la poesia della natura e costituiscono lo spettacolo più egualitario del mondo naturale, perché ciascuno le può interpretare a proprio piacimento nei modi più fantastici. ci impegniamo a lottare contro la filosofia dei cieli azzurri ogni qualvolta ne veniamo in contatto. Quanto sarebbe tediosa la vita se fossimo costretti a contemplare la monotonia senza fine di un firmamento sereno. Intendiamo ricordare a tutti che le nuvole denotano gli umori dell'atmosfera ed equivalgono alle espressioni del volto umano. Le nuvole, ne siamo convinti, sono fatte per i sognatori e contemplarle giova all'anima. Invero, chiunque si soffermi a considerare le immagini che evocano in ciascuno di noi, riuscirà a risparmiare in misura notevole sulla parcella del suo psicanalista. Perciò esortiamo tutti coloro che sono disposti ad ascoltarci. Alzate gli occhi, stupitevi della bellezza effimera e vivete con la testa tra le nuvole. Questo era il manifesto della Cloud Appreciation Society. Class seats. And your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Holy dancing in my soul, but tears on my cheeks. And life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. And life is tragic and small, 'cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. Mama sure does care about your schooling, son. Mm-mm-mm. You don't say much, do you? For a reason to why I'm still not there. Ecco, non si fa neanche tempo a individuare un gruppo nuovo all'esordio, inserirlo nelle playlist, farlo passare ripetutamente settimana per settimana, elogiarlo di fronte agli ascoltatori di Eclettica, che all'improvviso arriva la notizia che il gruppo già si è sciolto, una storia che finisce quasi prima di iniziare. Sto parlando di Lyric in Love, che ci siamo ascoltati proprio dopo le Coco Rosie. È arrivato l'annuncio in settimana del loro scioglimento e vedremo quello che succederà. Io sono convinto che prima o poi verremo raggiunti da un album solista di colui che dà il nome alla band, appunto Lyric in, non Love, nel caso abbiate qualche dubbio. E invece il brano che ci siamo appena ascoltati, che è appena terminato, è il nuovo dei Piano Magic Incurable, che esce da un album edito qua in Italia da Homeslip. Ed ora Modest Mouse. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Should have been, could have been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere. Well, it sounds like some place I'd like to go. Oh, could have been, should have been worse than you would ever know. Well, the windshield was broken, but I love the fresh air, you know. Still have a radio. The dashboard melted, but we're ready. ho sempre amato contemplare le nuvole. Niente in natura può competere con la loro mutevolezza e la loro scenografica teatralità. Niente possiede la stessa bellezza effimera e sublime. Se certi meravigliosi tramonti dietro una cortina di alto cumuli dovessero dispiegarsi in cielo solo una volta ogni 25 anni, entrerebbero senza dubbio a far parte delle leggende di tutti i tempi. Eppure, la maggior parte della gente sembra accorgersi appena delle nubi, quando non le considera addirittura un difetto che compromette la perfezione di un giorno d'estate, o una scusa per sentirsi giù di morale e rannuvolarsi. Non c'è nulla di più deprimente, a quanto pare, del vedere solo nubi all'orizzonte. Alcuni anni fa, decisi che bisognava porre fine a questa deplorevole situazione. Le nuvole meritavano una sorte migliore e non andavano più considerate mere metafore di sventura. Qualcuno doveva intervenire in loro difesa. E così, nel 2004, fondai un'associazione a questo preciso scopo. Scelsi di battezzarla The Cloud Appreciation Society, società per l'apprezzamento delle nuvole, e la inaugurai durante una mia conferenza a un festival letterario in Cornovaglia. Questo era l'incipit di Cloud Spotting, una guida per i contemplatori di nuvole, di Gavin Prater-Pinney. Thank you. stagione numero 13, settimana numero 34, volume numero 1. Indice, Blonde Redhead, 120 Days, At Swim Two Birds, Forget Cassettes, Half Cousin, Cajun Dance Party, Coco Rosie, Lyric in Love, Piano Magic, Modest Mouse, Auschka.